approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il Natale, scartati i pacchetti sotto l'albero, le giornate trascorse alla ricerca del regalo giusto sono già un ricordo. Con un po' di organizzazione e familiarità col web, anche quest'anno è stato possibile ridurre l'ansia da shopping natalizio e il timore di presentarsi a mani vuote la sera della vigilia. Negli ultimi anni, infatti, sempre più italiani hanno scelto la rete quale mercato ideale per le proprie strenne. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, solo fra novembre e dicembre si concentra circa il 20% della domanda online di tutto l'anno e per queste festività si calcola che siano stati effettuati via internet 27 milioni di ordini per una spesa totale di 3,5 miliardi di euro. Acquisti da fare direttamente a casa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Possibilità di trovare qualunque tipo di prodotto senza il rischio di scaffali vuoti o tagli e colori mancanti, prezzi più convenienti. Queste sono alcune delle ragioni che hanno reso lo shopping online pre-natalizio un fenomeno tanto diffuso. Ma quali sono le categorie che sono state più cliccate e trascinate nel carrello virtuale? Prodotti tecnologici in prima linea, ma anche accessori, capi d'abbigliamento o oggetti di design. Non mancano però i sempreverdi, libri o regali enogastronomici. Infine, c'è chi sceglie internet anche per l'acquisto di cibi tradizionali da consumare tra Natale e Capodanno. Ma come si garantisce la consegna di tutti questi beni in tempi così ridotti, a volte anche in sole 24 ore? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E con il Natale appena passato non potevamo non parlare di acquisti. Acquisti che si fanno ormai sempre più in rete. Il fenomeno dell'e-commerce è un fenomeno che finalmente si sta sviluppando anche qui in Italia, anche se con un po' di ritardo rispetto agli altri paesi europei, e noi cercheremo di raccontare questo fenomeno in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Riccardo Mangiaracina, direttore scientifico dell'osservatorio e-commerce B2C. Allora, innanzitutto, che cos'è questo osservatorio? Questo osservatorio è un'iniziativa di ricerca ormai nata nel 1999, quindi a più di 15 anni, che monitora l'evoluzione del commercio elettronico nel nostro paese, in Italia, e la monitora anno dopo anno, misurandone tutti i trend di crescita, e posso dire di crescita perché effettivamente il commercio elettronico dal 99 ad oggi ha continuato a crescere senza mai fermarsi. Ecco, è ovviamente troppo presto per fare dei bilanci, dovremo arrivare probabilmente a fine mese e questi dati si conosceranno solo nelle prossime settimane, ma qual è stato l'andamento del mese di dicembre? Il mese di dicembre direi che è andato molto bene. Rispetto al mese di dicembre del 2014 abbiamo registrato una crescita del 20% circa della domanda online, e diciamo così, gli italiani hanno fatto tanti regali di Natale online. Quali sono i beni che si acquistano di più in rete in Italia? Allora, se parliamo quindi di beni, quindi di prodotti fisici, sì, certamente l'informatica ed elettronica di consumo resta un settore particolarmente apprezzato online. In occasione poi di questo Natale direi che gli articoli che più si sono acquistati in questo settore sono gli smartphone, i tablet e anche quelli che si chiamano dispositivi indossabili, wearable device, primo fra tutti lo smartwatch, diciamo l'orologio intelligente. Si acquista molto anche l'abbigliamento, contrariamente a quanto si possa pensare online, perché l'abbigliamento notoriamente è uno di quei settori che ha quegli articoli più difficilmente acquistabili a distanza, perché tutti noi li vogliamo provare, toccare con mano prima di comprarli. Ecco che online l'abbigliamento invece va molto bene, perché si è sviluppata una buona offerta, ci sono tante case moda online, tante iniziative che vendono su internet al consumatore finale, e anche per questo Natale i capi di abbigliamento sono stati molto venduti, soprattutto gli accessori, borse o gioielli anche in primis. Ecco, prima dicevamo che l'Italia sconta un po' di ritardo rispetto all'Europa. Quanto è marcata questa differenza in questo momento? Ahimè, questa differenza è piuttosto marcata se ci confrontiamo con i principali mercati europei. diciamo UK, Francia, Germania. Ecco, UK per capirci ha una penetrazione del commercio elettronico che è quattro volte la nostra, la Francia ha una penetrazione che è due volte e mezzo la nostra e la Germania quasi tre volte. Per penetrazione intendo il peso degli acquisti online sul totale acquisti che i cittadini fanno. In Italia, per capirci, questo valore è del 4%. La nostra scheda iniziale terminava con una domanda. Come si garantisce la consegna di tutti questi beni in tempi così ridotti? Quanto è importante la regolarità e la tempestività nella consegna di questi beni acquistati in rete? Il tempo di consegna è certamente importante, la tempestività è particolarmente apprezzata dal cliente. Il cliente, oltre ad apprezzare per la tempestività di consegna, apprezza la puntualità, cioè apprezza il mantenimento della promessa da parte dell'esercente online. La logistica comunque, la fase di consegna è una fase importante anche, diciamo così, nell'interfaccia poi con il cliente finale, perché è il punto di contatto che poi l'esercente online ha con i propri clienti, quindi è una fase assolutamente fondamentale da non sottovalutare e dove gli operatori dell'e-commerce italiano devono investire molto per offrire al cliente servizi sempre più completi e a valore aggiunto. Abbiamo ascoltato dal Centro Studi del Politecnico di Milano quali sono i numeri del fenomeno, ma quanto sta incidendo sul commercio tradizionale? Ne parliamo con Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, associazione di categoria che rappresenta il commercio tradizionale, ma con una grande attenzione nei confronti del commercio elettronico, tanto da aver stipulato da tempo convenzioni con i principali operatori digitali. Bella, il commercio elettronico è percepito come un'opportunità o come una minaccia dal commercio tradizionale? Beh, di fronte a rivolgimenti profondi è normale, dal punto di vista antropologico, avere un po' di paura, e i nostri imprenditori ne hanno avuta in passato, però direi che oggi si è capito pienamente da parte di Confcommercio e dei suoi associati che il commercio elettronico fa parte della realtà e sarà sempre di più una realtà in crescita, e quindi anche i nostri commercianti tradizionali hanno in larga misura il loro canale. Si parla di multicanalità, di capacità di offrire diverse opportunità al consumatore, mi pare che la stiamo cogliendo. Gli stessi dati che sono stati discussi prima sul commercio elettronico da parte del Politecnico di Milano mettono in evidenza che comunque un 50% delle vendite tra prodotti e servizi nel 2015 sono vendite da commercio elettronico da siti di negozi tradizionali, quindi c'è una risposta positiva e si è capito con convinzione che il commercio elettronico è un'opportunità per tutti. Ecco, cosa prevedete invece per il futuro? Quale sarà il modello di commercio elettronico che si affermerà, ma soprattutto come sarà gestita la complessa filiera logistica della distribuzione urbana di queste merci, che è forse l'aspetto più complesso di questo fenomeno, perché muovere bit in rete, fare transazioni elettroniche è relativamente facile. Il problema è spostare poi gli atomi, cioè spostare i pacchi che devono essere trasportati nelle case degli italiani. Esatto, questo è un tema gigantesco, e non nascondo che anche con i colleghi di Conftrasporto abbiamo qualche preoccupazione, perché sinceramente la logistica e la mobilità nel nostro paese sono uno degli elementi più penalizzanti della competitività complessiva del nostro sistema e quindi delle nostre imprese. Si è capito finalmente che non esiste commercio elettronico senza logistica materiale, quindi i pacchi vanno trasportati, e in Italia il modello del commercio elettronico del futuro è sicuramente quello della multicanalità, cioè avere commercio offline e commercio online allo stesso tempo. Le persone possono scegliere da una parte e comprare dall'altra, viceversa. La logistica, soprattutto nelle nostre città, richiede un po' di investimenti in infrastrutture e soprattutto molti investimenti in infrastrutture, cioè la logistica virtuale deve essere quella che mi permette di fare un viaggio, di recapitare un collo, un pacco, un container senza trovare impedimenti sulla rete. Viceversa, le nostre città diventeranno invivibili, abbiamo una logistica che purtroppo non funziona.